La preghiera di Jabes. Leggo nella Bibbia, nel primo libro delle Cronache, capitolo 4, versetti 9 e 10. Jabes fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabes perché diceva: «L'ho partorito con dolore». Jabes invocò il Dio di Israele dicendo: «Benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire». E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. L'ambiente in cui viviamo, la famiglia in cui siamo cresciuti, le esperienze che abbiamo fatto, contribuiscono a formare il nostro carattere e a fare di noi le persone che siamo. Freud, il padre della psicanalisi, ha basato su questa semplice osservazione tutte le sue teorie. Secondo lui, la storia di una persona, il suo passato, condiziona a tal punto l'esistenza da rendere talvolta impossibile un cambiamento. Leggendo la Bibbia, ci ritroviamo però a confrontarci con qualcosa che Freud non conosceva, ovvero il fatto che Dio è in grado di fare ciò che l'uomo non può fare. Dio è in grado di cambiare una persona e di trasformarla completamente. Posso testimoniare di questo avendo conosciuto molte persone che dopo l'incontro con Cristo hanno condotto una vita completamente diversa da quella che avevano vissuto fino a quel momento. I versi che abbiamo letto sono inseriti in un capitolo che riguarda la genealogia di Giuda, quelle liste piene di nomi che difficilmente ci entusiasmano. Tuttavia lo scrittore del libro delle Cronache, compilando questa lista, arrivando ad un personaggio di nome Jabes, gli dedica qualche parola in più, attirando l'attenzione del lettore. Jabes era proprio una persona che poteva essere condizionata pesantemente dal proprio nome, dalla propria famiglia, dal proprio passato. In qualche modo portava nel suo nome un rifiuto fin dalla propria nascita. Infatti il suo nome, Jabes, porta in sé il significato di dolore, tristezza, sofferenza. Sua madre lo aveva chiamato così proprio perché aveva sofferto molto durante il parto. Eppure egli fu onorato più dei suoi fratelli. Perché? Cosa aveva di particolare questo personaggio? Jabes reagì alla sua storia, reagì al significato del suo nome per chiedere a Dio una vita diversa, una vita che non fosse caratterizzata dal male, dalla sofferenza, dal dolore, ma dalla benedizione di Dio. Questo ci fa comprendere che Jabes aveva una relazione con Dio tale da fargli credere che con l'aiuto di Dio e non attraverso i propri sforzi la sua vita poteva essere diversa. Egli si aspettava benedizione e protezione da parte di Dio e il Signore esaudì la sua preghiera. Purtroppo su queste poche parole di Jabes ci sono state molte speculazioni, quasi come se si trattasse di parole magiche da ripetere per ottenere le stesse benedizioni. La Bibbia però non ci dice che dobbiamo recitare a memoria le parole di quest'uomo per ottenere qualcosa da Dio. Tuttavia, impariamo che qualunque sia la nostra situazione, qualunque siano le circostanze in cui ci troviamo e le cose che abbiamo vissuto, possiamo andare a Dio con la certezza che Egli può cambiare le cose. Da Jabes impariamo a non essere rassegnate vittime di un destino oscuro, ma a confidare in colui che tutto può. In fondo Jabes non ha chiesto cose straordinarie, ma per i parametri dell'epoca ha chiesto una vita normale, dignitosa. Le parole di Jabes sono toccanti. Crediamo che Dio possa rispondere alle nostre preghiere e cambiare la nostra vita? Siamo in grado di reagire come Jabes e implorare l'intervento divino per ribaltare le sorti della nostra esistenza?